Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Dato che la condanna di mio zio per essere sceso in campo con il pretendente nel 1745 non era mai stata annullata, sarebbe stato poco opportuno per lui accompagnare suo nipote nella terra degli antenati, dove, se non la forca, perlomeno un fastidioso mandato d'arresto e un dubbio perdono attendevano il buon vecchio gentiluomo. In ogni momento critico della mia vita, i suoi consigli erano importantissimi per me, perciò non mancai certo di chiederne in questo frangente e lo implorai di darmi il suo parere su come riuscire a sposare la vedova Lyndon. Gli spiegai la condizione in cui versava il cuore di lei, così come ho fatto nell'ultimo capitolo. Gli dissi che il giovane Poynings aveva fatto progressi nel suo affetto e che il suo vecchio spasimante era stato dimenticato. E in risposta ebbi una lettera piena di eccellenti suggerimenti di cui non mancai di profittare. Il buon cavaliere mio zio premetteva che al momento era alloggiato presso il convento minorita di Bruxelles. Stava pensando di prendere lì i voti come francescano e di ritirarsi per sempre dal mondo, dedicandosi alle più severe pratiche religiose. Nell'attesa mi scriveva riguardo alla graziosa vedova. Era naturale che una persona di ampissimi mezzi e d'aspetto non sgradevole come lei avesse attorno molti adoratori, e dato che quando suo marito era ancora in vita lei non si era mostrata affatto contraria a ricevere i miei omaggi, non dovevo minimamente dubitare che non ero stato il primo a godere del suo favore, ed era improbabile che fossi l'ultimo. «Vorrei proprio, caro figliuolo», aggiungeva, «che quella brutta condanna che mi stringe il collo e la risoluzione che io ho preso di ritirarmi da un mondo tutta vanità e peccato non mi impedissero di venire personalmente in tuo aiuto in questo delicato momento di crisi che attraversano le tue faccende. Infatti, per condurle a buon fine, non bastano l'indomito coraggio, la tracotanza e l'audacia che tu possiedi più di qualsiasi altro giovanotto che io abbia mai conosciuto. Anche se hai il vigore per seguire una data linea di condotta, non hai l'ingegno per suggerirne una che rientri in un piano probabilmente lungo e difficile da realizzare. Quel brillante progetto sulla contessa Ida, che ti ha quasi messo in mano la più grande fortuna d'Europa, ti sarebbe mai venuto in mente se non ci fossero stati i consigli e l'esperienza di un povero vecchio che ora sta tirando le somme dei suoi conti col mondo e si prepara a lasciarlo una volta per tutte? Bene, per quanto riguarda la contessa di Lyndon, mi sembra che il tuo sistema di conquistarla per ora sia davvero per aria. Ne sono in grado di assisterti giorno per giorno, secondo le varie circostanze, come vorrei poter fare. Ma nel complesso, il tuo piano dovrebbe essere questo. Se ricordo bene, nelle lettere che ricevevi, quando quella sciocca teneva una corrispondenza con te, vi scambiavate molti sentimentalismi altisonanti ed era soprattutto sua signoria Lyndon a usarne. È un intellettuale in gonnella e adora scrivere. Faceva dei suoi disaccordi col marito il tema fisso della sua corrispondenza, come le donne spesso fanno. Ricordo diversi brani delle sue lettere in cui deprecava amaramente il suo fato che l'aveva unita a un uomo così indegno di lei. Indubbiamente in quella massa dei suoi biglietti che tu possiedi ci sarà quanto basta per comprometterla. Studiateli bene, scegli dei brani e minaccia di fare ciò che ti ho detto. Prima scrivile con il tono sicuro di un innamorato che ha tutti i diritti su di lei. Poi, se lei tace, tu protesta, alludendo alle sue vecchie promesse, presentando prove delle sue passate attenzioni per te, giurandole disperazione, distruzione, vendetta se si mostra infedele. Spaventala. sbalordiscila con qualche impresa incredibile che le provi la tua indomabile fermezza. Tu sei l'uomo giusto per farlo. La tua spada è famosa in tutta Europa e tu stesso hai una reputazione da uomo audace, che è poi quello che all'inizio ha fatto volgere gli occhi di Lady Lyndon verso di te. Fa che la gente parli di te a Dublino. Sii più splendido, più coraggioso, più bizzarro che puoi. Come vorrei esserti vicino. Tu non hai la fantasia che ci vuole per inventare un personaggio come te lo fabbricherei io. Ma perché parlare? Non ne ho forse abbastanza del mondo e delle sue vanità? Fu in base a queste istruzioni, dunque, che scrissi a Lady Lyndon al mio arrivo a Dublino, chiedendole quando avrebbe permesso al più rispettoso dei suoi ammiratori di intromettersi nel suo dolore. Poi, siccome sua signoria Lyndon manteneva il silenzio, le chiesi energicamente se avesse scordato i vecchi tempi e una persona che lei aveva onorato della sua intimità in un periodo molto felice. Calista aveva forse dimenticato Eugenio? Al tempo stesso inviai tramite il servo che portava questa lettera una piccola spada in dono a Lord Ballingdon e una lettera personale al suo istitutore, di cui, per inciso, possedevo un impegno scritto per la somma di, non ricordo più di quanto, comunque una somma che quel povero diavolo avrebbe molto preferito non pagare. Questa volta mi arrivò una risposta dal segretario di sua signoria Lyndon, in cui si diceva che Lady Lyndon era troppo turbata dal dolore della sua recente e terribile sciagura per vedere chiunque al di fuori dei suoi parenti. E poi un avvertimento da parte del mio amico, l'istitutore del ragazzo, che spiegava che il giovane parente che si preparava a consolarla era Milord George Poyntz. Questo provocò la lite tra me e il giovane nobile che ebbi cura di sfidare non appena arrivò a Dublino, come scrissi nel capitolo precedente. Quando la notizia del duello fu portata alla vedova a Castle Lyndon, il mio informatore mi scrisse che Lady Lyndon aveva lanciato uno strillo e scagliato il giornale per terra dicendo: «Quell'orribile mostro non arretrerebbe davanti a un omicidio, ne sono certa!» Mentre il piccolo Lord Ballingdon sguainò la spada che gli avevo regalato io, mascalzone, e dichiarò che l'avrebbe usata per ammazzare l'uomo che aveva fatto del male al cugino George. Quando Mr. Hunt gli fece notare che ero stato io a donargli quell'arma, il furfantello giurò ancora che mi avrebbe ammazzato lo stesso. La verità è che quel ragazzo, nonostante tutti i miei gesti affettuosi verso di lui, mi ha sempre detestato. Sua signoria Lady Lyndon inviava corrieri ogni giorno a informarsi dello stato di salute di Lord George, e io, pensando tra me che se avesse saputo che lui era in pericolo, si sarebbe decisa a venire a Dublino. Feci in modo di farle riferire che le condizioni di Lord George erano precarie, che peggiorava e che Redmond Barry, di conseguenza, era fuggito. Di questa fuga feci dare notizia anche sulle pagine del Mercury, ma non andai oltre la cittadina di Bray, dove viveva mia madre. Se ero in difficoltà in seguito a un duello, era logico che andassi dove sarei stato certamente il benvenuto. Quei lettori che sentono profondamente i doveri filiali si meraviglieranno che io non abbia ancora descritto l'incontro con la mia cara madre, che da giovane aveva fatto sacrifici tanto considerevoli per me. Un uomo per sua natura caldo e affettuoso come me non poteva non provare per lei il più durevole e sincero rispetto. Ma chi si muove in quelle alte sfere della società di cui io ormai facevo parte ha i suoi doveri pubblici da compiere prima di poter pensare ai suoi sentimenti privati. Perciò, appena arrivato, inviai un messaggio a Mrs. Barry, mia madre, annunciandole il mio arrivo. esprimendole i miei sentimenti di doveroso rispetto e promettendo di andare a rinnovarglieli di persona, non appena le mie occupazioni a Dublino mi avessero lasciato libero. Queste, inutile dirlo, erano molto impegnative. Avevo i cavalli da comprare, la servitù da assumere, l'appartamento da sistemare, dovevo fare la mia entrée nel gran mondo, e quando annunciai che avevo intenzione di comprare dei cavalli e vivere con certo stile, nello spazio di 2 giorni, fui tanto tempestato di visite dalla nobiltà e dai benestanti e così assillato dagli inviti a pranzo e a cena che per qualche giorno mi fu difficilissimo trovare tempo per la tanto desiderata visita a mia madre. A quanto pare, quell'anima buona, non appena sentito del mio arrivo, aveva preparato un piccolo ricevimento, invitando a parteciparvi tutte le sue umili conoscenze di Bray. Ma io presi poi un impegno con Milord Bailey Ruggett per il giorno stabilito da lei e naturalmente fui costretto a rompere la promessa che avevo fatto a mia madre di essere presente al suo modesto festino. Tentai di addolcire il suo disappunto mandandole un bel mantello di raso e un abito lungo di velluto che comprai per lei nel miglior negozio di stoffe di Dublino. Le dissi addirittura che l'avevo portato apposta per lei da Parigi. Ma il messaggero che avevo inviato con i regali riportò indietro i pacchi con il raso stracciato in 2 proprio nel mezzo. Non avevo bisogno del suo resoconto per capire che qualcosa doveva aver offeso la buona signora. Il messaggero disse che era venuta fuori e l'aveva insultato sulla porta. L'avrebbe anche preso a schiaffi se non fosse stata trattenuta da un signore vestito di nero. Conclusi giustamente che doveva trattarsi del suo amico ecclesiastico, Mr. Yules. L'accoglienza data ai miei regali mi fece guardare all'incontro con mia madre con paura più che con speranza. Rimandai la visita ancora di qualche giorno. Le scrissi una lettera rispettosa e carezzevole, che non ebbe risposta. E sì, che le raccontavo anche come nel mio viaggio verso la capitale mi fossi fermato a Perryville per rivedere i luoghi della mia giovinezza. Non mi vergogno di ammettere che mia madre è l'unico essere umano che io abbia paura di affrontare. Ricordo bene i suoi scoppi di collera quando ero bambino e le riconciliazioni che erano ancora più violente e dolorose. Per questo, invece di andare da lei di persona, le mandai il mio factotum, Ulic Brady, che partì a cavallo e tornò dicendo di avere avuto un'accoglienza che non avrebbe voluto subire di nuovo nemmeno per 20 guinee. Era stato cacciato via con l'ordine perentorio di informarmi che mia madre mi rinnegava per sempre. Questo anatema materno, per così chiamarlo, mi colpì molto, perché ero sempre stato il più rispettoso dei figli. Decisi di andare da lei al più presto possibile e di affrontare tutte le furiose accuse di una scenata che sapevo inevitabile, nella speranza di un'altrettanto sicura riconciliazione. Una notte avevo dato un ricevimento per una ristretta compagnia di persone tra le più raffinate di Dublino e stavo accompagnando alla porta il milord marchese al lume di 2 candele quando trovai seduta sugli scalini di casa mia una donna con un cappotto grigio. La presi per una mendicante e le diedi qualche moneta. I miei amici, che il vino aveva messo di buon umore, si misero a prenderla in giro mentre richiudevo la porta e davo la buonanotte a tutti. Fu per me una dura sorpresa scoprire più tardi che quella donna incappucciata era niente di meno che mia madre. L'orgoglio le aveva fatto giurare che non avrebbe mai messo piede in casa mia, ma un naturale istinto materno la spingeva a rivedere ancora una volta il viso di suo figlio. E così si era appostata, travestita alla mia porta. L'esperienza mi ha insegnato che queste in realtà sono le uniche donne che non tradiscono mai un uomo. Il loro affetto rimane costante attraverso ogni genere di prove. Pensate alle ore che quella povera creatura deve aver trascorso tutta sola in strada, ascoltando l'allegra baldoria nel mio appartamento, il tintinnare dei bicchieri, le risate, i cori e i brindisi. Quando avvenne il mio incontro con Lord George e mi si rese necessario, per motivi che ho spiegato, levarmi di mezzo, ecco, pensai, questo è il momento giusto per far pace con la mia buona madre. Non mi rifiuterà mai un asilo, ora che sono in apparenti difficoltà. E così l'avvertii con un messaggio che stavo arrivando, che un duello a cui avevo preso parte mi aveva messo nei guai e mi costringeva a cercare un nascondiglio. E mezz'ora dopo seguii il mio messaggero. Vi assicuro che non mi mancò una buona accoglienza. Venne introdotto in una stanza vuota dalla domestica scalza al servizio di mia madre e subito la porta si spalancò e la mia povera madre mi si gettò tra le braccia con un grido e con trasporti di gioia che non tenterò nemmeno di descrivere. Possono capirli soltanto quelle donne che stringono tra le braccia il loro unico figlio dopo 12 anni di separazione. Il reverendo Mr. Yowles, direttore spirituale di mia madre, era l'unica persona a cui la sua porta di casa rimase aperta durante la mia permanenza. Anzi, non c'era modo di tenerlo fuori. Si preparò un bicchiere di rum punch. Mi pareva che ne bevesse regolarmente e sempre a spese della mia buona madre. Fece un gran sospiro e cominciò subito a recitarmi una predica sul mio passato peccaminoso e specialmente sull'orribile azione che avevo appena commesso. «Peccaminoso?» disse mia madre, rizzando il pelo a vedere che suo figlio veniva attaccato. «Certo, siamo tutti peccatori. Ed è a voi, Mr. Yowles, che devo l'inestimabile benedizione di sapere questo. Ma come avreste voluto che si comportasse il povero ragazzo? Io avrei preferito che il Signore evitasse tutto quanto. La bevuta, la lite e questo crudele duello!» Ma mia madre lo interruppe, dicendo che un comportamento simile andava benissimo per una persona con il suo abito e la sua nascita. Ma non si addiceva né a un Brady né a un Barry. A dir la verità, era entusiasta al pensiero che io avessi ferito il figlio di un marchese inglese in duello. E così, per consolarla, le raccontai di molti altri in cui mi ero battuto, compresi alcuni che il lettore già conosce. Dato che il mio ex antagonista Lord George non era assolutamente in pericolo quando avevo diffuso la falsa notizia della sua agonia, non c'era nessuna particolare necessità che mi nascondessi con grande cura. Ma mia madre, che non conosceva bene come me tutta la faccenda, fece barricare la casa e tenne di guardia giorno e notte Becky, la sua servetta scalza, perché desse l'allarme se gli ufficiali di polizia fossero venuti a cercarmi. L'unica persona che aspettavo, invece, era mio cugino Ulrich, che doveva portarmi l'atteso annuncio dell'arrivo di Lady Lyndon. E devo confessare che dopo 2 giorni di stretto confino a Bray, passati a raccontare a mia madre tutte le avventure della mia vita e a convincerla ad accettare i vestiti che prima aveva rifiutato, nonché una sostanziosa aggiunta al suo reddito che io le offrii volentieri, fui molto contento quando vidi quel reprobo di Ulrich Brady, come lo chiamava mia madre, fermarsi alla porta di casa nella mia carrozza con le liete notizie per mia madre che il giovane Lord era fuori pericolo, per me che la contessa di Lyndon era arrivata a Dublino. Però io avrei voluto, Redmond, che quel giovane gentiluomo fosse rimasto in pericolo un po' più a lungo, disse mia madre, mentre le salivano le lacrime agli occhi. Così tu saresti rimasto un po' di più con la tua povera vecchia madre. Ma io le asciugai le lacrime, abbracciandola stretta, e promisi che l'avrei vista spesso, accennando alla possibilità che io avessi presto una casa tutta mia con una nobile nuora ad accoglierla. «E chi è, Redmond caro?» disse mia madre. «Una delle donne più nobili e ricche dell'impero, mamma». «Niente più Brady stavolta», aggiunsi ridendo, e con queste parole di speranza lasciai mia madre di ottimo umore.